24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Tornano gli allarmismi sui mercati del vecchio continente rilanciati dalla banca americana Citi, con un rapporto in cui si ipotizza che anche la Spagna debba chiedere una qualche forma di assistenza o aiuti al resto dell'Unione Europea. Anche l'agenzia Standard & Poor's ha indicato che la Spagna è un sorvegliato speciale, mentre la Grecia potrebbe essere costretta a un nuovo piano di ristrutturazione. Decisivo sarà il potenziamento del fondo salva stati da 500 a 940 miliardi di euro, di cui si parlerà nell'Ecofin in programma oggi e domani a Copenaghen. È tornata la tensione sui mercati finanziari europei in attesa dell'Ecofin che si terrà nel weekend, sui crescenti timori per la situazione finanziaria spagnola e greca e per il rallentamento dell'economia mondiale. Milano è stata la borsa peggiore, affossata dai bancari che in Europa hanno perso il 2,7% circa e dall'allargamento dello spread tra BTP italiani e Bund tedeschi sopra quota 340 punti base, con il FTSE MIB in calo del 3,3%. La peggiore è stata MPS, che ha ceduto quasi l'11% nel giorno della diffusione dei conti, che hanno mostrato una perdita di 4,7 miliardi di euro a causa di svalutazioni per 4,5 miliardi. In forte calo anche BPM, meno 10,4%, seguita dal Banco Popolare e UbiBanca. Tra le big, l'unico titolo positivo è stato Finmeccanica, più 2,9%, che ha beneficiato ancora delle indiscrezioni sulla vendita di Ansaldo STS, Breda ed Energia. Ancora in profondo rosso la Galassia Ligresti con Fossae, la controllante Premafin, in ribasso del 14%. Ad affossare le quotazioni è stato il pressing della Procura di Milano che, in merito agli accertamenti sulla situazione patrimoniale dell'intero gruppo, starebbe studiando varie soluzioni, tra cui la possibilità di presentare istanza di fallimento. Livia Zancanera da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Commissione europea sostiene la riforma Monti del lavoro e insiste perché l'Italia faccia in fretta e faccia bene. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, intervenendo a Radio Anch'io, sottolineando l'importanza di lavorare per la crescita. Tajani ha evidenziato l'importanza di intervenire sul costo del lavoro cresciuto negli ultimi anni in Italia molto più velocemente che in Germania. Intanto la Spagna, contro la riforma del lavoro, si ferma. La Spagna sembra ancora più divisa dopo una giornata di sciopero generale deciso dai grandi sindacati per contrastare la riforma del lavoro varata dal governo conservatore. Uno sciopero che ha bloccato quasi del tutto l'industria e il settore delle costruzioni del paese e che anche nei servizi, a cominciare dai trasporti, ha garantito solo i livelli essenziali. Alcuni scontri, soprattutto in Andalusia, i cancelli delle fabbriche e le violenze isolate dei Black Bloc a Barcellona, non hanno compromesso le manifestazioni che si sono svolte quasi ovunque senza problemi. Per i sindacati è stato un grande successo, tanto che i loro leader hanno dato un mese di tempo al governo per modificare una riforma che dimezza gli indennizzi di licenziamento e permette alle imprese di licenziare in caso di difficoltà economiche, in un mercato, bene ricordarlo, nel quale non esiste la protezione dell'articolo 18. Il governo ha però risposto ribadendo che non intende modificare di una parola l'impianto di una legge già approvata dal Parlamento. E in una Spagna in recessione, con un tasso di disoccupazione al 23%, il premier Mariano Rajoy si appresta a presentare una manovra finanziaria di lacrime e sangue. Per rispettare gli accordi con l'Europa dovrà introdurre tasse e tagli alla spesa per almeno 35 miliardi di euro nel 2012. Luca Veronese, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Siviglia. Buone notizie almeno della Germania, dove il tasso di disoccupazione è sceso dello 0,2%, arrivando al 7,2% a marzo rispetto al mese precedente. Un anno fa, nello stesso periodo, il tasso dei senza lavoro era del 7,6% della popolazione attiva. Per il Consiglio d'Europa, l'Italia fu responsabile della morte di 63 migranti. L'Italia avrebbe dovuto soccorrere i migranti. È la conclusione di un rapporto approvato dal Comitato per l'immigrazione del Consiglio d'Europa che si occupa della morte di 63 persone provenienti dalla Libia, avvenuta nelle acque del Mediterraneo un anno fa. Nel rapporto adottato a Bruxelles dalla Commissione Migrazioni, Rifugiati e Profughi si dice che la responsabilità ricade sulle autorità italiane di soccorso, sulla NATO, sugli stati di cui battevano bandiera le navi che si trovavano nella zona, sulle autorità libiche e sugli scafisti. La barca che lasciò Tripoli con 72 persone a bordo è arrivata 15 giorni dopo sulle coste libiche con solo 9 sopravvissuti, nonostante messaggi con richieste di aiuto e malgrado le coordinate della loro ultima posizione fossero state inviate a tutte le imbarcazioni della zona. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Parlamento europeo istituisce una sua speciale commissione antimafia. Tra i 45 parlamentari che la compongono, 6 sono italiani. Tra loro Rosario Crocetta, ex sindaco di Gela, che commenta: è una svolta. L'ha intervistato Raffaella Calandra per la rubrica Ciascuno il suo. Quando io inviai una lettera a Buzek in cui chiedevo l'istituzione di una commissione speciale sul fenomeno delle mafie in Europa, poco diversi parlamentari nord europei soprattutto mi insultavano, dicevano: ma no, la mafia è un problema italiano. Poi incontrai Martin Schulz, che adesso è presidente del Parlamento europeo, era immediatamente convinto della cosa. I paesi sono abbastanza rappresentati perché c'è la Germania, c'è la Francia, c'è il Regno Unito, la Svezia, l'Olanda, ci sono anche alcuni paesi dell'est come la Slovacchia, la Romania, l'Ungheria, la Spagna. Che tipo di compito e che tipo di attività dovrà svolgere? Sì, indagare sullo stato del crimine in Europa, sulla corruzione, il riciclaggio, quello di vedere se gli attuali strumenti che noi abbiamo nella lotta al crimine in Europa siano adeguati. L'obiettivo principale è anche quello di cercare di mandare delle direttive che vadano ad armonizzare la legislazione europea. Per esempio, noi abbiamo dei problemi incredibili. L'Inghilterra a volte si rifiuta di concedere l'estradizione ai mafiosi perché non riconosce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. È un'aberrazione questa. Meno caro navigare con il telefonino in Europa. Bruxelles rivoluziona le tariffe di roaming. Accordo fatto tra Europarlamento, Consiglio e Commissione per dare un ulteriore taglio alle tariffe di roaming, quelle che paghiamo quando siamo all'estero e il nostro telefonino aggancia una rete di un operatore straniero. We think we are in one union, but if you look at the prices using your smartphone. Angelika Niebler, eurodeputata tedesca del PPE, relatrice del provvedimento, spiega che l'intenzione di Bruxelles è quella di arrivare un giorno ad azzerare le tariffe di roaming per essere un'unione almeno in questo. Il nuovo taglio delle tariffe scatta da luglio, massimo 29 centesimi più IVA per un minuto, 8 centesimi per ricevere la telefonata. Nuove riduzioni il prossimo anno fino ai 19 cents per chiamare e 5 per ricevere nel luglio 2014. Ancora più interessante la riduzione del roaming per i dati scambiati da smartphone e tablet. Il costo al mega scende da luglio a non più di 70 centesimi, che caleranno a 45 nel 2013 e a 20 nel 2014. Altra novità scatterà fra 2 anni per aumentare la concorrenza e costringere gli operatori ad affrontare tariffe più convenienti. Dal 2014 chi va all'estero potrà sottoscrivere un contratto con un operatore locale, qualora più conveniente, mantenendo però il proprio numero di telefono. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo in Francia. Dopo rifiuti e polemiche, i funerali di Mohamed Merah si sono svolti nel cimitero vicino a Tolosa, nel sud-ovest della Francia, nonostante un primo rifiuto del sindaco della città di ospitare la salma del killer. Nel pomeriggio era arrivato il monito del presidente Nicolas Sarkozy a celebrare i funerali del killer di Tolosa senza polemiche. In Italia, 2 tentati suicidi in meno di 24 ore, 2 gesti estremi legati alla perdita del lavoro e a difficoltà economiche. Un muratore artigiano di 58 anni, originario di Caserta, si è dato fuoco davanti all'Agenzia delle Entrate di Bologna, ora ricoverato in condizioni gravissime, con ustioni in tutto il corpo, doveva al fisco 104.000 euro ed era indagato per utilizzo di fatture false. A Verona, invece, un operaio marocchino di 27 anni si è dato fuoco di fronte al municipio, nella centralissima Piazza Bra, sostiene di non ricevere lo stipendio da 4 mesi. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. Andiamo nel Regno Unito, sul magnate dei media Rupert Murdoch arrivano nuove accuse di sabotaggio, sospetti su 2 persone sotto indagine a Siracusa. Da giorni ne parlano i giornali inglesi e australiani, sotto osservazione un procedimento che si tiene al Tribunale di Siracusa in cui sono imputate 15 di persone coinvolte in una inchiesta internazionale di spionaggio industriale di manovre commerciali poco ortodosse che coinvolge la News Corp di Rupert Murdoch. Per loro l'accusa principale, spiega il PM Martina Bonfiglio, è di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Per la sentenza bisognerà attendere un po', ma entro l'estate saranno ascoltati tutti i testimoni e sarà possibile farsi un'idea precisa sulle vicende rilanciate nei giorni scorsi dai media internazionali su un possibile collegamento tra gli hacker italiani e il gruppo Murdoch, o peggio, di un coinvolgimento di quest'ultimo in una storia di spionaggio industriale o azioni a danno dei concorrenti. Per i magistrati Retusei, Sky Italia è parte offesa. L'ipotesi di un collegamento vi fu, ma la pista non fu sviluppata. Il PM Bonfiglio lo dice chiaramente: non sono stati provati collegamenti con Murdoch. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Siracusa. È tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie Daniele Teruzzi in regia, a voi per l'ascolto, un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa.